siamo contenti di ritrovarci qui alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta per questo ricordo a 5 anni dalla scomparsa di Silvano. Sono già passati 5 anni e era un lamento, ecco, è Grillo. Prova, è andato. Due parole veloci perché ci tenevo a ricordare, come sapete, che quest'anno, oltre a questa serata in cui Carlo e Paola racconteranno un po' di cose che ha fatto, grazie, ha fatto Silvano, non solo in questa città ma come intellettuale, avremo una giornata dedicata all'interno del Festival delle Resistenze. Non abbiamo qui i libretti, però li trovate in tutta la città sostanzialmente, e prossimamente li avremo anche qui in biblioteca. Il Festival delle Resistenze, come sapete, è un festival che parte il 25 aprile, si conclude il 1 maggio, quindi all'interno di due date molto importanti per la vita di questa Repubblica, e partono dall'idea dalla resistenza storica per arrivare alle resistenze contemporanee. Cioè ci chiediamo che cosa vale la pena di resistere oggi, e ci vuole resistenza oggi, ci vuole molta resistenza. E all'interno del programma del festival abbiamo una giornata, due iniziative dedicate alla memoria di Silvano, ma anche a che cosa ha fatto Silvano per la città e anche per la nostra provincia. Ognuno di noi, penso molti di noi, l'hanno conosciuto, hanno fatto un percorso con lui insieme, in veste diverse, ci ha insegnato moltissimo, è stato un politico, un urbanista, un intellettuale importante. Questa sera credo che parleremo soprattutto del Silvano Bassetti intellettuale, che ha lasciato una traccia profonda all'interno non solo di questa città, io penso, ma di tutta la nostra provincia. E una delle cose che verrà ricordato è appunto l'impegno anche per il polo bibliotecario. Ricorderete la battaglia, l'impegno, il lavoro fortissimo fatto da Silvano, in cui anche come assessore all'urbanistica del comune, per la realizzazione del polo bibliotecario. Allora ci è sembrato bello, e con questo passo la palla anche a Valeria che leggerà e poi ai relatori, sviluppare appunto, essendo Silvano un intellettuale importante, avendo un'importante biblioteca, avendo testi, diciamo, scritti, Silvano ha scritto molte cose interessanti, belle, importanti da conservare, da mantenere, da trasmettere, istituire e lavorare la costituzione di un fondo. Ci stiamo lavorando da qualche mese e siamo prossimi a sottoscrivere appunto la costituzione di questo fondo, che verrà gestito dalla Biblioteca Claudio Augusta. Credo che sia importante che la nostra biblioteca provinciale, quindi che ci sia anche un riconoscimento non solo della città ma anche della provincia rispetto al ruolo di intellettuale e di persona aperta e mente critica della nostra provincia, di Silvano Bassetti. E quindi nei prossimi giorni avremo anche la costituzione di questo fondo, e ringrazio la famiglia, ringrazio Renata della disponibilità anche a mettere a disposizione questi testi, questo patrimonio per la collettività. Adesso noi siamo qui in uno spazio abbastanza angusto, no Valeria? Ogni volta che ci troviamo ci ricordiamo quanto sia in realtà non adeguata questa sede, ma la nostra prospettiva è appunto quella di andare il prima possibile nel polo bibliotecario. Stiamo lavorando per realizzarlo insieme al comune, e appena sarà pronto peraltro il nuovo classico dovremo partire con i lavori. All'interno del polo bibliotecario avremo, io penso, credo, e naturalmente su questo ci impegniamo, anche una sezione per valorizzare questo fondo. Questo è l'inizio anche di una collaborazione, perché stiamo ragionando sulla possibilità anche di istituire, perché no, una borsa di studio legata allo studio, allo sviluppo della città, del territorio, perché appunto Silvano era un urbanista, ma è sempre stato attento anche allo sviluppo del tessuto sociale, cioè del fatto che le città devono essere belle e funzionali, ma poi anche essere vive, sono fatte di persone. E quindi forse il Festival delle Resistenze di quest'anno, che è intitolato Tessuto Sociale, richiama un po' questa idea. Io vi ringrazio ancora per essere qui, vi invito a partecipare anche al festival, perché se guardate il volantino avrete sicuramente visto, vedrete che le iniziative durante tutto l'arco del festival, ma in particolare di questa serata, sono veramente qualificate e meritano una presenza forte e anche affettuosa di tutti noi. Quindi grazie a tutti e buona serata. Aprire un file al mattino, quando ancora nessuno è nello studio, è un piccolo rito quotidiano di scritture inutili e segrete. Mi piace frugare nel cassetto dei ricordi, mi piace giocare con le parole e le sensazioni e lasciare che il pensiero divaghi. È diverso ed insieme uguale ad altri momenti della mia vita, come quando guardavo fuori dalla finestra di Viale Trento, ero un ragazzo. Allora il tempo di accudire ai miei pensieri e alle mie piccole scritture era all'imbrunire. Vedevo il profilo del Roen diventare scuro e stagliare il suo profilo netto nel cielo luminoso del tramonto. E grumi di malinconia invadevano la mia anima e i miei primi quaderni nascosti. Come quando aspettavo la notte nella mia stanza di via Novacella, divoravo libri di letteratura e teologia. Erano i tempi di Bernagno e Semeritain. Poi mi imponevo discipline di ascesi e di studio. Non mi bastava il tempo per pensare il pensabile ed ero preso da ansie di futuro e da furori di utilità per il mondo. Le scritture erano dichiarazioni di impegno, giuramenti di dedizione, sfide di coerenza. L'università e il 68 mi sono esplosi dentro e fuori. I luoghi e i tempi di pensiero e scrittura si sono moltiplicati, aggrovigliandosi a una vita zingara. Stanze di collegio, aule affollate, angoli di assemblea, università occupate, treni notturni, uffici romani, e sempre in intervalli di lotta, di viaggi, di riunioni. In questa tumultuosa stagione le scritture si sono divise tra politica e architettura. Tutti i testi da esibire, da consumare. Non c'era più tempo per le scritture inutili e segrete. Poi la laurea, la famiglia, il lavoro, lotta continua. Il tempo diventa ancora più stretto e il pensiero è inesorabilmente occupato. Non c'è spazio per accudire quegli angoli in cui si annidano malinconie e fantasie e si scrive solo ciò che serve. Fino a quando sgorgano malesseri e disamori, allora corri a cercare i tuoi vecchi quaderni e con nuove stilografiche torni a frugare in fondo all'anima e sono faticose riprese di fili interrotti. Fino a quando, ripristinato faticosamente l'equilibrio dei tuoi sentimenti, trovi di nuovo la pace delle scritture gratuite, come oggi, con un file mattutino sul computer in studio, o come, frequentemente negli ultimi tempi, con un vecchio quaderno rilegato sulla terrazza del Garda. Acceso? È acceso? No. È acceso. Una delle immagini che vedete scorrere nella selezione sul video è esattamente uno di quei quaderni ricchi di spunti, di riflessioni, di lavoro e di sofferenza ma anche di entusiasmo che mio padre ci ha lasciato in una quantità veramente sorprendente. Lui usava la scrittura in maniera varia, variegata, completa, come strumento di lavoro, di riflessione personale, come strumento di confronto politico, professionale, personale, come svago, come puro piacere della scrittura, del ragionamento e della riflessione. E di fronte a questa conclamata capacità di trasmettere, ci troviamo oggi di fatto di fronte a un fondo che già esiste. Bisogna solamente metterlo insieme, metterlo a sistema, selezionare i filoni, le grandi pagine tematiche, però in realtà c'è già in ragione del fatto che Silvano Bassetti, mio padre, è stato un personaggio che descrive sostanzialmente in maniera emblematica uno spaccato storico della nostra comunità, della nostra città, nella varietà delle sue attività, che vanno da la pagina scelta parte dalla sua infanzia in Viale Trento, la politica, la professione, è esattamente questo quello di cui ci troviamo di a cui ci troviamo di fronte, e che abbiamo l'impressione sia di una rilevante importanza per la possibilità di rilettura di questa epoca. 5 anni dalla sua morte sono, e questo invece è un appunto personale, una tappa piuttosto importante, perché in un percorso mio personale intimo che passa da uno shock affettivo e esistenziale della perdita di una persona come un padre così vicino, così giovane, così nel pieno della sua attività, che faceva lo stesso mestiere che faccio io oggi, per cui, come dire, con una cosa ho attraversato delle tappe che mi portano oggi a 5 anni a avere l'impressione di essere pronto io, e forse anche attraverso un gruppo di amici che mi aiutano e ci aiutiamo a vicenda a fare questa cosa qua, il tempo per una prima rilettura seria. Una rilettura che fra l'altro passa attraverso importanti momenti professionali, scientifici o comunque di carattere sociale antropologico, politici, amministrativi, e in forme molto diverse, testi intimi, testi ufficiali. La settimana scorsa ero in comune e una delle segretarie dell'assessorato urbanistica, con grandissimo affetto, mi ha detto: devi fare qualcosa, perché ha aperto due ante di armadio che sono piene di documenti, appunti, scritti. E lei dice: questa roba prima o poi bisognerà capire cosa farne. E in ragione di episodi come questo, che è, come dire, l'ultimo, forse anche uno dei più leggeri, e mille altre cose, ci troviamo qui oggi a presentare il progetto di fondo e biblioteca scientifica di Silvano Bassetti. Scusatemi. Abbiamo in atto un percorso ormai da più di un anno, che ragiona della necessità o della volontà di molti di noi, amici, parenti, conoscenti, estimatori, di fare delle cose che possano ricordare e possano riportare nella memoria e in nome di Silvano Bolzano, almeno in alcuni momenti o per alcune emblematiche iniziative, al centro del dibattito, almeno urbanistico e amministrativo, come dire, non è in discussione gli anni centrali del ruolo di mio padre come assessore fecero di Bolzano in generale. Il laboratorio Bolzano è una cosa di cui si parlava e si scriveva e si leggeva anche su riviste che con Bolzano non hanno niente a che fare, e intorno a questa cosa, come dire, all'avvicinarsi del 5° anniversario, a me e a mio fratello Marco è venuta in mente l'idea di proporre, e lo ringraziamo, alla struttura dell'assessorato, alla cultura, alla biblioteca provinciale, una serie di iniziative che hanno nella presentazione di oggi il primo appuntamento. e che hanno in due iniziative nel giorno del quinto anniversario della morte, che sarà venerdì prossimo, il giorno 26, altri due eventi nell'ambito, come ricordava l'assessore Tomasini, del Festival delle Resistenze, per cui con sede in Piazza Matteotti. Un'iniziativa alle 18.30 più incentrata all'esperienza urbanistica, architettonica e al laboratorio Bolzano di cui vi dicevo, a cui parteciperanno cinque protagonisti del dibattito nazionale, vengono da fuori Bolzano ma avevano avuto modo di discutere e lavorare con Silvano, e alle 21 un'iniziativa che si intitola La città di Silvano, che invece con un approccio più di carattere culturale, letterario, affronterà il tema della città di Silvano, e a cui parteciperanno, oltre a Josef Zöderer e a Roberta Dapunt, che sono due rispettivamente scrittore e poetessa locali, Stefano Levi della Torre, che era un amico e compagno degli anni 60 e 70 di Silvano, che oggi è scrittore, opinionista, eccetera. Vado a concludere dicendo due cose. Intorno al progetto di fondo, che poi Paola spiegherà più nel dettaglio, sia metodologico che di formazione, eccetera, eccetera, noi andremo a cercare di costruire anche un percorso che possa fare del fondo e della collezione di libri, della biblioteca di Silvano, che doniamo e che stiamo mettendo in ordine, il centro per poi uno sviluppo presso la biblioteca, il polo bibliotecario, di qualcosa di magari più ampio, perché abbiamo avuto sentori, disponibilità anche molto leggeri nel confrontarci con amici di Silvano e così, che dicono perché noi architetti, urbanisti, pensatori, professori, eccetera, eccetera, invece che mandare i nostri libri, mettere i nostri libri in cantina, non prendiamo l'occasione perché intorno a questa cosa si possa fare qualcosa di un pochettino più ampio. Questo è un altro auspicio. L'altro auspicio, e poi do la parola prima a Valeria per un'altra lettura. L'altra cosa è che crediamo, abbiamo la speranza e il programma di concludere questa fase di lettura, rilettura, selezione degli scritti con una pubblicazione, nel senso che stiamo mettendo a posto, abbiamo l'occasione anche di utilizzare dei fondi che avevamo raccolto per delle iniziative, eccetera, eccetera. Crediamo che a conclusione, o comunque più avanti nel percorso che oggi stiamo iniziando, ci sarà l'occasione di avere anche una pubblicazione, perché crediamo, non sappiamo se attraverso un'antologia o attraverso un percorso tematico, attraverso qualcosa d'altro, però abbiamo l'impressione e anche la speranza che ci siano condizioni e basi per poter fare una cosa di questo genere. Io vi ringrazio ancora di essere venuti a questa presentazione, do la parola a Valeria che ci legge un altro testo. Presento le tre pagine che leggiamo sono quella che avete sentito, molto intima e che racconta solo in parte naturalmente il rapporto con la scrittura. Il testo di adesso di Valeria, che è del 2003 riprende un tema importante, molto alto e di spessore, ma che Silvano offriva al dibattito, che è il tema della città bella, per poi concludere con un testo più importante, più robusto, di tema più amministrativo e calzante sui temi allora caldi, oggi ancora più caldi, che però non vi svelo e vi lascio come finale conclusione. Valeria. Il problema della qualità dello sviluppo è questione di ampio significato e di grande implicazione culturale e politica, e contiene in sé anche la questione estetica, senza però esaurirla. La qualità dello sviluppo, infatti, chiama in causa l'intera scala dei valori su cui deve costituirsi il progetto del miglior futuro possibile per la nostra città. La sostenibilità ambientale, l'equità sociale, l'equilibrata fioritura economica, il dispiegamento delle peculiarità multiculturali, la qualità della vita dei suoi abitanti, eccetera. È questo il quadro di progettualità complessiva in cui mi piace collocare un grande impegno collettivo di tutti i bolzanini, nella prospettiva possibile di un progetto di eccellenza urbana. In questo quadro si colloca a pieno titolo la bellezza della città e la qualità dell'architettura. Ed è la questione su cui, pur nella sua parzialità, non posso esimermi dal pronunciarmi. Bolzano è una città bellissima. La storia e le generazioni precedenti ci hanno consegnato un piccolo gioiello. L'obiettivo minimo, ma non da poco, è di non rovinarla. Il problema però non può ridursi a garantire la giusta dose di qualità individuale alla singola opera architettonica di nuova costruzione. Infatti la città è un organismo complesso. È il prodotto di un millenario processo di stratificazione, trasformazione storica che ha formato in un impareggiabile contesto agricolo montano uno straordinario insieme di palazzi e di case, di strade, di piazze. Indubbiamente questo insieme presenta un picco di qualità unanimemente riconosciuto nella città storica costituita dall'insieme dei tessuti medievali, portici e dintorni, e delle sue espansioni ottocentesche. Ma faremmo torto a noi stessi se non scorgessimo una buona qualità anche nelle espansioni novecentesche contemporanee. Un solido impianto urbanistico della città fascista ha strutturato le espansioni successive, garantendo allo sviluppo urbano una soluzione di compattezza e di ordine, che fa di Bolzano un eccellente esempio di città consolidata. C'è in questa configurazione una qualità manifesta che si contrappone alla dispersione urbana e alla disseminazione periferica, che caratterizzano il prevalente modello di sviluppo contemporaneo della città italiana ed europea. Ne deriva un ulteriore picco di qualità nello specifico rapporto di piena contiguità e di riconoscibile relazione fra la città compatta, la campagna intensiva circostante e le intatte pendici montane. È su questi elementi di complessiva e peculiare qualità urbana che dobbiamo misurare le nuove espansioni e le nuove costruzioni. Dobbiamo progettare con la consapevolezza che agiamo su un insieme, che operiamo in un contesto e che proseguiamo un'opera già formata. Sarebbe un primo vero passo verso un patto con i cittadini per una città bella. Buonasera, Carlo mi ha chiesto di cercare di spiegare, compito non semplice vista la poliedricità della produzione di mio fratello, e di spiegare un po' in cosa consiste nel concreto questa somma di materiali scritti da sé medesimo o raccolti che verrà a costituire appunto il fondo. E mi scuso perché insomma sono un po' emozionata. Mi sono preparata uno dei famosi schemini con i quadrati e le frecce che mio fratello mi ha insegnato a produrre, gli schemi concettuali, quando mi aiutava in qualche passaggio nello studio. Non tantissimo in realtà, perché io sono nata e lui è perfettamente in quel momento uscito di casa per andare all'università, quindi non abbiamo nemmeno mai convissuto, e però insomma anche se a 20 anni di distanza ovviamente il legame è stato diverso ma particolare. E abbiamo già accennato come la scrittura sia il nodo centrale, il filo rosso che lo contraddistingue sempre dall'età molto giovane fino all'ultimo minuto. C'è un diario proprio degli ultimi giorni e lo abbia segnato sia dal punto di vista della produzione strettamente personale e sia in quella della produzione che possiamo definire così per intanto di tipo intellettuale e professionale. Il fondo permette, al di là delle sue connotazioni e delle possibilità che apre e diciamo del prestigio che offre, innanzitutto la possibilità di mettere ordine a questa montagna di cose che ci sono e che non sono nemmeno tutte nello stesso posto, perché lo citava prima Silvano stesso nel suo file, i quaderni del Garda, quindi sono un po' sparse tra la casa di Bolzano e la casa del Garda degli ultimi anni, ma che ha vissuto molto molto intensamente, e i suoi uffici, i posti dove ha lavorato, e sia rispetto all'attività di architetto sia rispetto all'attività di amministratore. Quindi la possibilità innanzitutto di mettere insieme in modo compatto queste cose, di metterle in ordine, di conservarle, nel senso che per quanto siano dentro librerie domestiche, poi non si sa nel tempo e nelle generazioni dove le cose un po' si sparpagliano, quindi di raggrupparle, di conservarle, di renderle accessibili a chi ne è eventualmente interessato per motivi di lavoro o per altri motivi, e anche per fornire, dico perché no, un tassello di conoscenza rispetto a quella che è la città e il territorio nel senso ampio della parola, come territorio urbano ma anche come territorio di tipo rurale, temi a cui appunto Silvano si è dedicato tantissimo, sia nella parola che nello scritto. Per fare questo lavoro, che non è di poco conto, anche se naturalmente il lavoro più tecnico sarà quello della biblioteca e delle persone che vi lavorano, però abbiamo costituito un piccolo gruppo di lavoro per fare una raccolta di massima, per dare un ordine, diciamo una sgrossa, per fare un po' i mucchi, ci diceva Valeria, voi fate i mucchi degli argomenti, poi noi facciamo le schedature. Questo gruppo di lavoro è la famiglia, inevitabilmente, per cui Carlo, Marco, la Renata, mia sorella Tiziana, io e due amici che ci aiutano molto, che sono Franco Bevilacqua, che è qua in sala per amicizia ma anche per le sue competenze culturali nonché di tipo archivistico molto preziose, e Peter Morello, urbanista, amico anche lui di Silvano, che ci è di grande aiuto, se non altro perché oltre a conoscere molto bene la persona e la sua produzione scritta, è anche coautore di moltissimi pezzi che diciamo riguardano soprattutto l'urbanistica e il paesaggio. E quindi il materiale è corposo, indubbiamente è tanto, è grande, è di tipo cartaceo per molti motivi, non ultimo il fatto che fino a un certo punto c'era l'uso del computer né nel lavoro né a livello personale, e dopo un certo punto, nonostante Silvano abbia continuato comunque a scrivere anche appunto nei famosi quaderni, oltre un certo punto questo materiale è informatizzato, ce l'abbiamo in computer, e tra il passaggio dal cartaceo all'informatizzato magari merita un piccolo aneddoto, nel senso che mi ricordo che lui insomma nei primi anni 80 mi aveva aiutato a revisionare la tesi di laurea che io rigorosamente scritto a mano, non ce l'avevo il computer, e Valeria più o meno la mia coetanea probabilmente sarà successo anche a lei, e leggevamo questi fogli, e lui mi diceva ma insomma adesso però bisogna cominciare a imparare anche a scrivere direttamente al computer. Poi gratta gratta mi ha raccontato successivamente che ha fatto una grande fatica lui a passare dal mezzo cartaceo a quello informatico, e che ha passato un lungo periodo, penso che lo possano testimoniare chi gli era più vicino in casa, a scrivere le cose e poi a trasferirle attraverso la tastiera. Quindi anche lui insomma era un po' di quella generazione che poi ha fatto grandissimo uso del mezzo, considerandolo insostituibile ed eccezionale, ma che in fin dei conti la penna insomma era sempre la penna. E quindi materiale cartaceo, materiale informatizzato, materiale in parte conosciuto perché pubblico, in parte più intimo e conosciuto magari a livello familiare, ma neanche tutto, cioè nel senso che ci sono molte cose che stanno venendo fuori, di cui insomma neanche le più strette persone sapevano l'esistenza, magari la sapevano, non avevano letto. E, riguardo a, diciamo, al materiale, noi lo possiamo dividere in due grandi mucchi, in due grandi montagne. Uno sono le pubblicazioni che potremmo definire ufficiali e che conosciute anche da molti e che sono quelle proprio formalmente pubblicate, quindi i volumi stessi dalle Villes della Valbadia, la Casa Bolzano e quant'altro, e i volumi che ha prodotto anche come amministratore su Ferroplano, sulla Reale Ferroviario, eccetera, sul piano urbanistico, i saggi, gli articoli pubblicati in riviste di settore, in riviste specializzate, e la montagna di editoriali che lui ha scritto per Turis Babel e per Atlas, che ha fondato, aperto e poi lasciato anche andare avanti ad altri, e anche per altri tipi di scritti. Ci piacerebbe ovviamente che una copia di ognuna di queste cose potesse esserci, cioè le potessimo mettere insieme tutte, perché forse ci pare non tutto abbiamo in singola copia, e questo, diciamo, è relativamente semplice, diciamo così, da elencare o da reperire. Poi c'è tutta un'altra montagna grandissima che è quella che potremmo definire della scrittura più personale, però anche questa la possiamo dividere in due sottocategorie, diciamo. La scrittura personale, però, legata a temi pubblici, a temi grandi, a temi legati alla città, ma anche al sociale, ma anche all'urbanistica, ma anche all'amicizia, al rapporto tra le persone, alla spiritualità e quant'altro, che sono però in qualche maniera collegati o trasmissibili attraverso quella che era la sua disciplina, quella del fare architettura, del fare urbanistica, di studiare di questo e di scrivere di questo. Ci sono i temi politici, anche questi più o meno noti, qualche cosa poi anche dato alla stampa, qualche cosa invece trattenuto a livello personale, riflessioni, come detto, su tantissimi temi, carteggi con personaggi che possono essere il docente universitario, il collega di mestiere, ma anche il sacerdote o l'amico recuperato dai tempi del 68, e naturalmente tutto quella che è la parte in qualche maniera legata al periodo in cui lui è stato amministratore, parte dell'amministrazione della città, come assessore all'urbanistica per 8 anni. Questa parte di scritti che abbiamo definiti personali si divide in questa parte un pochino più teorica, un po' più disciplinare, un po' più pubblica, e in quella invece proprio più intima e più privata, dove le riflessioni sull'oggi, sull'ieri, sulla propria vita, sulla situazione della città, sulla buona e cattiva amministrazione, su, non lo so, il suo filo, il suo collegamento ai viaggi, per esempio, è appunto ad ampio spettro. Poi ci sono una serie di diari che sono diari personali, ma anche diari di viaggio. Ha viaggiato, gli piaceva viaggiare, era una persona curiosa, prendeva appunti e fotografava anche molto, quindi ahimè ci sono molte scatole di diapositive, sia di architettura, quindi legate alla documentazione professionale, sia legate ai viaggi che faceva di studio per andare a vedere determinate cose, ma anche viaggi con la famiglia, uno anche con me, di cui esistono, insomma, molte tracce, il nostro famoso viaggio in camper che abbiamo tantissime volte rivisitato. E ci sono bozze di lavoro, appunti, ci sono schizzi e ci sono anche resoconti di giardinaggio, nel senso che ci sono anche tutte le sue riflessioni sui cicli della natura, le fioriture, il giardino e le classificazioni botaniche, accompagnate anche da foto specialistiche molto, molto ordinatamente spese. Quindi, insomma, non è poco ed è di ampio raggio. Accanto a questi due mucchi grandissimi, che sono appunto lo scrivere e l'espressione del suo pensiero personale, intellettuale e professionale, c'è il materiale legato ai periodi in cui lui ha, fino a quando ha lavorato come architetto a tutti gli effetti, fino a quando non è diventato assessore nel 2000, e quindi semplicemente tutti i progetti che sono ancora in cartaceo, e gli schizzi, gli appunti, gli schemi e le diapositive che vi nominavo prima. E poi posso anche aggiungere, poi non so se questo possa essere di interesse per un fondo o qualcosa, qualcuno vorrà anche tenere a casa, immagino, ed è la biblioteca personale, che è immensa e consta di volumi scientifici, ancora una volta architettura urbanistica, ma anche di tutta una serie di volumi che testimoniano dei suoi ampi interessi, la cultura materiale, l'antropologia, la teologia, l'abbiamo nominata prima, il paesaggio e naturalmente tutto il repertorio letterario e poetico, che, come dico, non dico possa necessariamente passare d'amblè in un fondo bibliotecario, ma può essere testimonianza di un suo gusto personale dal punto di vista non solo estetico, ma anche proprio di contenuto e di tipo poetico e letterario. In aggiunta noi pensavamo anche al poter mettere insieme una rassegna stampa, cioè una raccolta appunto di tutti gli articoli, ma anche dei video, interviste, programmi, documenti, documentari che sono andati in onda sulla RAI nazionale, locale, su varie reti televisive, e su questo anche vorrei aprire una parentesi, anche per rendere un po' meno barbosa questa classificazione che ho cercato di mettere in ordine. Abbiamo reperito, proprio trovato la traccia qualche giorno fa, di un grosso documentario che è stato fatto all'inizio degli anni 80 su Aldo Moro, dove è presente Silvano con una lunga intervista dove la giornalista dice, appunto parlando di Aldo Moro, che cercava molto il colloquio con gli studenti, il confronto più che lo scontro nel movimento studentesco del 68, e che un giovane studente di allora, dice l'intervista, oggi un quarantenne affermato professionista, ha avuto modo di incontrare l'allora presidente del Consiglio, e a questo punto si apre questa intervista dove Silvano racconta con molta lucidità questo incontro. Lo raccontava volentieri anche in famiglia, diciamo, però solo quando lui aveva voglia e quando c'erano le condizioni giuste, e dice che ha incontrato Moro a Palazzo Chigi, che ha avuto questo lungo confronto privato, e che quando Aldo Moro stava congedandosi gli ha chiesto: ma cosa farebbe lei se fosse presidente del Consiglio al mio posto? E forse Aldo Moro si aspettava una risposta con alta concettualità di tipo politico, e invece Silvano dice di avere detto: io non so, ma penso che in questo momento di grandissima tensione toglierai la polizia dall'università. E Aldo Moro si è congedato in modo molto cortese ma molto formale e non ha aggiunto una parola, e Silvano diceva però che il giorno dopo la polizia nell'università non c'era più. E mi sembra un tema comunque scottante, anche di grande attualità, quello dello scontro, sempre delle violenze purtroppo legate a questo tema. E mi avvio alla conclusione: ci piacerebbe anche disegnare, mettere in progetto un piccolo ex libris che connoti questo fondo, come spesso accade nelle collezioni che poi vengono donate alle biblioteche, come in questo caso. Io ho in mente un bellissimo ex libris della Fondazione Erasmus Zallinger, poi dopo può essere anche un logo molto, molto più semplice, ma insomma che renda riconoscibile questi volumi. E come Carlo aveva già anticipato, magari anche alla fine di questo lavoro, perché già fatichiamo un po' a coordinarci, a mettere insieme le cose, alla fine di tutto questo magari una scelta dei passaggi migliori, dei vari settori, per un'antologia ragionata o qualcosa di simile, poi magari con il contributo di amici intellettuali o di persone a lui legate per via della professione, che magari possono contribuire al commento di questi scritti e di questa antologia. La parte più pubblica, quella più conosciuta, è sicuramente la parte che ci dà la quota di Silvano, più razionale, più legata al metodo, più legata proprio a un sistema di studio e di pensiero estremamente organizzato, sia nella forma parlata che nella forma scritta, per chi lo ha potuto leggere o ascoltare nel tempo. Sicuramente la parte di scritti più intima, quella proprio il secondo livello di intimità, quello delle riflessioni sue personali, è un mondo che si apre un po' anche ai nostri occhi e che sicuramente ci dà l'aspetto dell'umanità più profonda, della sensibilità a pelle molto, molto elevata, che poi lui sapeva trasformare in pensiero, ma comunque partiva da una sensibilità forte, e anche oserei dire quell'aspetto malinconico che non sempre magari veniva fuori nell'assessore o nel Silvano, nello studente o nell'architetto più battagliero. E concludo con il pensiero, se ne parlava così tra amici, del fatto che questo primo riordino e questo fondo, e non è l'unico che la Biblioteca Claudio Augusta ha peraltro di personaggi che hanno studiato e soprattutto che sono legati fortemente al territorio, e questo è un po' lo scopo scopo di creare fondi qui piuttosto che in un archivio storico comunale o provinciale, è proprio l'idea di gettare un seme per una possibile sorta di archivio dell'architettura, del paesaggio, dell'urbanistica, del territorio, del Novecento chiaramente, come un qualche cosa di aperto, di infieri, no? A cui poter aggiungere materiali per chi li avesse di un certo spicco, di un certo pregio, che possano andare avanti nel tempo con questo discorso, anche in visione o nella visione spero reale e presta, se si può dire, della realizzazione del polo universitario. E credo che questo tipo di discorso, quindi non fermo ma in fieri, è un qualche cosa che Silvano avrebbe sicuramente molto apprezzato. Grazie. Beh, nel ribadire l'invito ai prossimi due appuntamenti di venerdì, e anche con una certa commozione nel ricordare Silvano Bassetti, vi ringrazio e do la parola a Valeria per l'ultimo intervento e l'ultima lettura. Le Pascoli e il Polo Bibliotecario, Silvano Bassetti, 23 aprile 2006. Il caso delle Pascoli e del Polo Bibliotecario è giustamente al centro dell'attenzione e del dibattito. In esso si concentrano temi e passioni che lo rendono emblematico di questa particolare fase di intense trasformazioni urbane. Perciò è giusto discuterne, possibilmente superando la facile polemica e ponendosi in autentico spirito di ascolto e di confronto. È con questo spirito che ritorno sull'argomento. Lo faccio con una serie di interrogativi a cui attribuisco il compito di fare chiarezza problematica sulle questioni in gioco, e distintamente propongo la mia risposta a ciascun interrogativo, non con la presunzione della verità, ma come manifestazione di una posizione personale su cui chiedo il beneficio della buona fede e del fondamento razionale. Serve un polo bibliotecario provinciale? Certamente sì. È un progetto culturale che viene da lontano ed è altamente innovativo. Affronta in maniera organica il servizio pubblico bibliotecario a livello provinciale, con una grande struttura che unifica le tre biblioteche oggi esistenti: Biblioteca Provinciale Tedesca, Biblioteca Provinciale Italiana e Biblioteca Civica. È una preziosa iniziativa unitaria concentrata tra provincia e comune. È la prima operazione segnatamente interetnica proposta dal sistema autonomistico. Implementa il ruolo di Bolzano come città capoluogo e come città universitaria. Serve un polo bibliotecario così grande? Probabilmente sì. Il programma funzionale e spaziale è imponente e assai ambizioso. Deriva dal ruolo di centralità strategica attribuita al polo. È il risultato di un lungo lavoro unitario di elaborazione da parte di tutti i tecnici provinciali e comunali, con qualificate consulenze scientifiche che ne certificano la dimensione e la qualità. Deriva dall'ipotesi funzionale di una grande biblioteca moderna, con una robusta dotazione di fondi librari e documentari anche di tipo multimediatico, con grandi sale di lettura, con ricche attrezzature di consultazione informatica e telematica, con spazi attrezzati per incontri pubblici e seminari di studio, con ampi spazi di socializzazione, bookshop, caffetteria, conversazione, eccetera. È corretta la sua localizzazione? Sostanzialmente sì, pur derivata da precondizioni date, scuole in dismissione e proprietà pubblica, la localizzazione presenta aspetti assai favorevoli rispetto al criterio di forte centralità urbana, ma finalmente, senza proporre per l'ennesima volta un intervento in centro storico, teatro, auditorio, museo, università, valorizza virtuosamente la città nuova, vogliamo chiamarla città italiana di impianto fascista, si colloca al centro del più forte insediamento scolastico di tutta la città, a distanza pedonale da tutte le principali scuole superiori bolzanine e dall'università, e si colloca in un'area urbana fortemente servita dal trasporto pubblico. È compatibile con la conservazione del complesso scolastico Pascoli Longon? Forse. Comunque, in forma assai problematica e senza scorciatoie. L'unica vera maniera per conservare gli edifici esistenti stava nella conferma della destinazione scolastica, da tempo superata da consolidate e incontestate decisioni, ovvero nella scelta di una improbabile destinazione funzionale più leggera, museo, uffici provinciali, eccetera. Appare assai difficile conciliare la conservazione del vecchio edificio con i 73.000 metri cubi e con la specialità tipologica della biblioteca, e comunque la difficile soluzione del conflitto fra conservazione e innovazione mi pare correttamente da affidare alla responsabilità culturale e alla creatività artistica del progetto architettonico e del suo autore, a patto però che la questione sia posta in termini propriamente culturali e architettonici. È semplicemente culturale e architettonico il conflitto? Evidentemente no. Il conflitto, come spesso accade a Bolzano, ha assunto innegabili connotati emotivi, politico-culturali, etnopolitici e direttamente partitici. Suscita emotività l'ipotesi della demolizione, si mobilita un'opinione pubblica e gli studenti con essa, che individua nella possibile scomparsa delle pascole un'ulteriore perdita di un pezzo di città a cui si è affezionati, e che percepisce un eccessivo disordine nei processi di trasformazione urbana, ma rischia di non distinguere la qualità e la portata strategica di questa operazione, che non può essere assimilata a una qualsiasi iniziativa privatistica e speculativa, quale ad esempio fu la sciagurata demolizione del Cinema Corso. La vicenda alimenta anche la indispensabile battaglia culturale delle associazioni protezionistiche, giustamente allarmate da una generale indifferenza politica all'attività di indiscriminata sostituzione del patrimonio storico della città. Ma rischia di portare gloriose associazioni come Italia Nostra a una battaglia ambigua dagli inaccettabili toni antimodernisti, ma soprattutto sulla delicata questione. Organizzano l'arrembaggio politico i difensori dell'italianità o simmetricamente i fanatici iconoclasti. Si fa presto a pensare delle pascole l'ultimo simbolo dell'italianità. Lo fanno Enne e Unitalia che lo vogliono difendere, lo fanno gli Schützer che lo vogliono cancellare. e torna a galla il disagio degli italiani, chiudendoci tutti nell'ennesimo cul-de-sac. Come se ne esce? Chissà. Mi auguro che a Bolzano se ne esca con un bellissimo progetto architettonico, capace di dare un'adeguata forma fisica al grande progetto culturale della biblioteca, una significativa forma simbolica a una grande istituzione interculturale e una risposta alta alla domanda di identità plurale della nostra Bolzano. Vorrei un progetto bello, sensibile e amorevole. Bello in sé, sensibile alla memoria del sito, amorevole verso la città. Thank you.